scena procede sul contrabbasso di Esperanza Spalding, Tom Harrell per la scrittura di questo brano, quindi la nostra playlist continua, ma continua a essere su Il Sipario con i 103.1 come ogni venerdì. Ne abbiamo già parlato, qualche anticipazione per quanto riguarda il teatro a San Giovanni in Persiceto, sarà questa sera alle ore 21. Chiara Piscopo e, mi permetto di dire, il nostro Eugenio Maria Bortolini e l'importanza dello zenzero. Per Eugenio Maria Bortolini, che saluto ma che è latitante, immagino che però sia tornato a Bologna, lo chiediamo a Chiara Piscopo che è qua con noi. Buongiorno Chiara. Buongiorno William, buongiorno a tutti. Sì sì, è tornato. Oh. Sono più tranquillo perché ho provato a cercarlo in settimana, ma boh, non sono riuscito a mettermi in contatto. L'importante è che è tornato, ecco. Cioè. È tornato assolutamente. Bene. In piena forma. E questa sera, come sempre poi, perché Bortolini, sappiamo che lo scoppiettante Eugenio, già conosciuto tra l'altro coideatore della rubrica In Scena del venerdì su Radio Città Fujiko nel Breakfast Club. Ma parliamo dell'importanza dello zenzero. È un lavoro, è un motivo di conversazione, è una coppia, notizie che arrivano, dibattiti, incontri, scontri tra i due protagonisti, proprio sulla fruizione e sulla interpretazione di queste notizie. Ci puoi dire qualcosa di più? Se ho intuito bene lo spettacolo. Sì, sì, no, hai intuito benissimo. Questo è un lavoro che nasce dalla collaborazione drammaturgica mia e di Eugenio, vede la regia di Eugenio Maria Bortolini, ed è una produzione del Teatro degli Angeli, questa piccola realtà bolognese che cerca di portare avanti anche delle produzioni indipendenti. E ci siamo interrogati proprio sulla direzione che sta prendendo l'informazione in generale, soprattutto con l'avvento del digitale, ed è un dibattito anche dai toni molto accesi in un certo momento su due posizioni che sono entrambe condivisibili, e per questo che a un certo punto nei vari confronti, diciamo, tu da che parte stai? Perché da una parte si accusa l'etica del giornalista che a volte non è più così zelante nell'approfondire le notizie, nel verificarle, ma antepone la velocità dell'uscita della sì. notizia a discapito di una veridicità, e questo mette in discussione la credibilità della notizia stessa. Dall'altra parte abbiamo forse un mondo di lettori che adesso sono diventati anche loro molto veloci nella lettura, pertanto restano superficiali. Il giornalista accusa che noi lettori spesso ci fermiamo ai grandi titoli senza andare a leggere tutto il resto della notizia, che la nostra concentrazione si è abbassata, e che sono poi fondamentalmente tutte grandi verità. Sì, indubbiamente, sono contenuti che tra l'altro porto anche come motivo di dibattito e di critica all'interno del Breakfast Club nella parte dedicata all'informazione. Io mi informo e diffondo unicamente contenuti che non siano online. Certamente è impossibile, è una lotta contro i mulini a vento, ma mi attengo il più possibile a un'informazione che sia fuori la realtà online, per diversi motivi che poi ho spiegato. Cioè la modalità, oltre che la veridicità, che è fondamentale, la modalità porta non un contenuto di approfondimento e molto sbrigativo a discapito di un titolo che vede parole chiave. Se uno scrive un articolo mediocre ma mette le parole chiave giuste, ha più visibilità perché i motori di ricerca lo mettono al primo posto rispetto magari a qualcuno che non ha messo determinati codici ma che ha avuto una capacità di approfondimento ben più consistente rispetto alla caratteristica che ho detto in precedenza. Quindi, come avrei capito, tra virgolette, io sono un conservatore. E con chi mi schiero? Con te o con Eugenio, se si può dire? La mia ingenuità, come dire, a volte non percepisce appieno il discorso che hai appena fatto. Comincia a focalizzarlo proprio durante lo spettacolo, ed è per questo che poi vai in crisi. Ma è esattamente quello che dice il giornalista. A questo però risponde la lettrice dicendo: va bene, però allora l'etica del giornalista, anche della denuncia di un certo modus operandi, e inoltre di quel giornalista invece poco etico, perché? Certo. Quello che si chiede la lettrice è: perché siamo arrivati a questo? Perché voi non avete bloccato questa cosa, se è così come dici tu che lo apprende in quel momento, insomma. Ed è esattamente... tipicamente, sì, no, sto pensando a Eugenio, ma ovviamente anche alle tue parole. Tra l'altro ti ringrazio per questa anticipazione, ma sto pensando, conosco Eugenio da anni e la sua modalità di lavoro la conosco, mi permetto di dire, abbastanza bene. Questo è uno dei percorsi, cioè di rendere protagonista al pubblico, chiedendo al pubblico, portandolo a teatro, e poi rivolgere con lo spettacolo questa domanda che dà motivo di riflessione. Esatto. Ma lo stesso passando tempo, sempre, sì, attraverso quelle che sono poi dopo le nostre modalità, no? Molto spesso anche con un sorriso, sì, richiamando una risata, benché alla fine diventi una risata amara, sì, ma la modalità è sempre quella, no? Voler alleggerire l'animo per poi colpirlo in pieno. Certo, infatti come nella seconda parte che tu hai portato a termine giustamente in maniera molto esaustiva nella narrazione poi di Eugenio e anche di Chiara, c'è questo che abbiamo dato con grande, insomma, con un certo tipo di parole, però è presente un'ironia, una dinamicità, una capacità comunicativa non indifferente, che tra l'altro per ottenerla bisogna passare anche attraverso il sorriso, e questa è una grande capacità di Eugenio e anche di Chiara per l'importanza dello zenzero, che troveremo questa sera alle ore 21. Ne ho già anticipato qualche contenuto, alcuni ascoltatori, ascoltatrici di Radio Città Fujiko, grazie alla rubrica In Scena, saranno a teatro, quindi insomma ci tengo in particolar modo a diffondere queste micro sensazioni e questi motivi concreti quanto mai attuali, però proposti in un modo, non voglio dire accattivante, però indubbiamente con un valore aggiunto che sa mantenere l'attenzione di chi andrà a fruire di questa importanza, l'importanza dello zenzero. San Giovanni in Persiceto, Teatro Comunale, questa sera alle ore 21. Chiara, puoi restare un attimo, ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo in diretta, così mi dai una mano a fare conduzione, diamo qualche altra notizia. Assolutamente sì. Grazie, a tra poco. A tra poco. Makes my body free. Down deep inside I feel the magic of your smile. Every time I sing my melody. Beautiful love, you're my fantasy. I close my eyes. Something within a dream. Sometimes I feel inside the magic of your touch, and it is only like ecstasy. Alle 11.30 Jazz Live, e direte: ma come, adesso parliamo di jazz, siamo a teatro? Ma ho un ricordo ben preciso a proposito dei contenuti dell'importanza dello zenzero. Come ben sapete, Jazz Live è con me Alfredo Pasquali. Alfredo è un conoscitore di jazz, di arte, oltretutto di giornalismo, autore di articoli, autore anche di libri, di di saggi, insomma, di esperienza certamente notevole. Ma restiamo al jazz. Per una presentazione di un concerto, allora scrive l'articolo e allo stesso tempo si notano alcuni aspetti che andrebbero rivisti. Viene chiesto a me di scrivere l'articolo, che certamente appassionato, anch'io sono un grande, mi permetto, appassionato di musica jazz, ma non certamente con alcune finezze, alcuni dettagli riportati da Alfredo. Quindi tenete ben presente queste due figure. Mi viene detto: ok, pubblichiamo questo. Ma come pubblichiamo questo? Sì, metti questa parola qui, aggiungi questo titolo con una virgola là. Questo sicuramente lo porterà all'attenzione del pubblico, perché il motore di ricerca lo porterà più avanti rispetto ad altri articoli. Allora, un articolo che ha una qualità ben precisa è stato, per così dire, non dico snobbato, perché, però ha avuto molte meno visualizzazioni rispetto a un articolo mio, che sono il primo a dire, ha un contenuto, non dico più povero, però molto molto molto più immediato. Questa è la rete, perché determinati codici che vanno a discapito della qualità, oltre che la velocità e poi la veridicità, questa è ancora più grave, ma è per quello che resto legato a altri aspetti rispetto alla rete. E questo è, nell'importanza dello zenzero, motivo assolutamente di confronto, di incontro e anche di scontro. Scusa se ti ho tediato con questa esperienza personale, Chiara. Assolutamente. Ci sei. Assolutamente. A un certo punto c'è una battuta del testo che dice: la menzogna, se ripetuta, può diventare storia, ma non verità. Sì, confermo assolutamente. Sulla menzogna ne abbiamo sentite anche nel passato più e più volte. La storia la scrivono i vincitori, questo è un altro aspetto che non bisogna mai dimenticare, e che se una menzogna viene ripetuta più e più volte, alla fine per la grande massa diventa una verità. In questo, online sicuramente è un alleato perfetto, Esatto. Questo è decisamente un alleato perfetto. Allora, l'importanza dello zenzero, passiamo alle collaborazioni. Hai citato il Teatro degli Angeli, ci puoi dire qualcosa di più, Chiara? Sì, certo, questa è una produzione Teatro degli Angeli. Teatro degli Angeli è questa piccolissima realtà teatrale del quartiere Savena, che ha una piccolissima ma meravigliosa sede proprio lì, che è un ex oratorio sconsacrato. Sì. Con degli angeli affrescati, da lì nasce il nome Teatro degli Angeli. È una realtà di teatro indipendente che cerca di fare non solo una micro stagione teatrale per far circuitare quelli che sono degli spettacoli indipendenti, e quindi non legati a delle grandi produzioni, e prova a fare delle piccole produzioni da far appunto invece girare come proprie produzioni. La difficoltà del teatro indipendente è sicuramente la distribuzione degli spettacoli. Noi stiamo cercando di fare rete con quelle che sono realtà piccole, indipendenti come la nostra. A volte troviamo di fronte dei teatri istituzionali illuminati come quello di San Giovanni in Persiceto, che riesce a dare spazio anche a delle realtà appunto meno istituzionali, meno conosciute, meno distribuite. Attenta a quello che dici sulla luce, perché a Teatro degli Angeli ho portato modifiche all'impianto elettrico io, che sono elettricista. No, ricordo. Ma questo anche perché... prima o dopo dell'incendio? Perché no, prima, assolutamente. E allora il tuo lavoro è stato rielaborato. Il mio lavoro è stato rielaborato, poi non sono più, ahimè, elettricista, quindi avete fatto bene a rielaborarlo. Però diciamo che ne sono innocente di certi danni, questo lo voglio mettere ben in chiaro. No, assolutamente, quello è stato un danno doloso. E quello è stato doloso, ricordiamolo, infatti sì, no, perché sì, poi stato... Piana mette le mani su un impianto elettrico e tutto prende fuoco. No, è stato no. No, è stato purtroppo un episodio doloso. È stato purtroppo un triste episodio dal quale ci siamo risollevati, così come ci siamo risollevati anche dal Covid. E questo è il motivo per cui invito tutti a venire a teatro. Facciamo, certo, che quest'arte rimanga sempre viva. Cercate anche i piccoli teatri indipendenti, che anche quelli spesso fanno spettacoli di grande qualità. Certo, sì, indubbiamente. E ricordiamo la diffusione che arriva nel cartellone teatrale di Tre Teatri per Te a San Giovanni in Persiceto, la rassegna Storie Quasi Assurde, promossa in collaborazione con i teatri di Crevalcore e Sant'Agata, riuniti nel cartellone Tre Teatri per Te. Quindi ringraziamo per questa collaborazione di diffusione, perché, come ha detto giustamente Chiara, la narrazione teatrale indipendente è altrettanto importante, anzi a volte riserva delle sorprese assolutamente interessanti, come in questo caso l'importanza dello Zenzero San Giovanni in Persiceto, teatro comunale di San Giovanni, appunto, alle ore 21. Bene, null'altro da dichiarare? Giura di dire tutta la verità in questo caso. Nient'altro se non ringraziarvi per questa meravigliosa opportunità. Io adesso mi aspetta il montaggio della scenografia, perché come sai si fa tutto nella certo, stessa giornata. Lo so bene, lo so. E quindi buon lavoro, visto che ti sei alzata presto, dai, va bene così. Dai. Grazie, grazie davvero, William. Ciao Chiara, salutami Eugenio. Ciao. Senz'altro, ciao, senz'altro. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ci salutiamo, è terminata la settimana, ultima settimana di novembre che è andata a intercettare il primo giorno di dicembre che cade esattamente in vigilia di weekend, che vi auguro molto bello, stupendo, sereno, chi più ne ha più ne metta, perché vi voglio carichi, è lunedì al Breakfast Club con i magazine e quello che sono gli approfondimenti che danno il via, per così dire, alla nostra settimana assieme. A breve rassegna stampa anticipata da Liberi Dentro, si chiude con l'Edipo Enciclopedico, dalle 11.30 alle 12.30 il Jazz Live, compendio con Francesco Bettini del Torrione Jazz Club di Ferrara e direttore artistico del Bologna Jazz Festival, breve conversazione per dare un compendio a questa, scusate, bellissima, capisco, i tuoi superlativi, no, bellissima edizione di Bologna Jazz Festival, che lascia ben sperare tra l'altro anche per un percorso culturale nella nostra città in musica e progetti futuri, per cui complimenti Francesco, lo sentiremo in Jazz Live, avremo l'appuntamento nel weekend con il Torrione e vari ed eventuali, tutto ciò all'interno del Jazz Live su Radio Città Fujiko. Mi congedo a voi con un caloroso abbraccio, l'appuntamento l'ho già detto è a lunedì, un buonissimo weekend e un buon ascolto sulle nostre frequenze dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.